La libertà è un'avventura che non finisce mai. E la vivrai con ogni Pokémon che acchiapperai. Lancia la tua sfera.